Rassegna Stampa Europa. E un saluto da Anna Migliorati. Questa settimana siamo insieme come tutte le settimane su Radio 24 per vedere anche le notizie della settimana da un altro punto di vista che non sia solo quello italiano, ma uno sguardo europeo a quelle che sono state le notizie della settimana. E su questo fronte è stata sicuramente una settimana molto intensa, non solo per le decisioni contestate più o meno dai vari paesi della Banca Centrale Europea che si è riunita proprio in Italia a Napoli, e poi per i contrasti tra Parigi e Bruxelles sui conti pubblici, contrasti nei quali è intervenuta anche l'Italia. È stata anche la settimana delle audizioni di quelli che saranno i futuri commissari europei e quindi la squadra di governo, e per una volta le polemiche non ci hanno interessato direttamente ma ci riguarderanno se diventeranno i prossimi commissari europei, e poi le varie tensioni che non solo l'Italia ha con Bruxelles. E allora cominciamo proprio questo sguardo alla stampa europea da questo fronte questa settimana, perché è ancora una volta Londra a scagliarsi contro Bruxelles e a chiedere che non sia l'Europa a prendere il sopravvento. Qual è l'ultima querelle che divide Londra e Strasburgo? È una promessa elettorale figlia di un braccio di ferro interno alla Gran Bretagna, fatto sta che ha portato i conservatori guidati dal premier David Cameron a minacciare di tirarsi fuori dalla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, tant'è che è stato presentato un piano che il ministro della giustizia britannico definisce fattibile e legale per assicurare che sia il Parlamento britannico ad avere l'ultima parola sulle leggi votate a Westminster in materia. E allora l'Independent titola così: un governo conservatore non avrebbe consentito un'ingerenza europea sulle sentenze dei diritti umani. È proprio l'intervista al ministro della giustizia britannico che ha scatenato la polemica, la scatenerà sicuramente anche nei prossimi giorni. Così dice, bisognerebbe rendere chiaro, dice all'Independent il ministro britannico, che i giudici del Regno Unito non sono obbligati a piegarsi alle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani quando si arriva alle decisioni. La legislazione dovrebbe dichiarare la Corte Suprema britannica arbitro unico. La discussione è molto accesa sui quotidiani britannici. Effettivamente quello che stiamo facendo, così accusa il governo inglese, è trasformare in Strasburgo un organo consultivo. Allora, chi decide, Westminster o Strasburgo? La parte avversa contesta al governo britannico, sempre dall'Independent, se si procedesse così sarebbe come mettersi in linea con la Bielorussia che la convenzione l'ha lasciata. Insomma, querela è quanto mai aperta. Ma dicevamo, la BCE che ha destato polemiche e non solo in Italia, una decisione che è vista diversamente dai vari paesi europei. Allora proprio in Inghilterra restiamo, dove il Times così titolava dopo la decisione di Mario Draghi: Mario Draghi finalmente sceglie e preme sul pulsante dell'iniezione di liquidità. Era ora, va fatto, questo è un po' la teoria del Times. Mario Draghi ha finalmente svelato i dettagli del suo piano per l'acquisto di asset. Ovviamente lo sappiamo, non così la pensano i tedeschi. Allora, Frankfurt Allgemein, il titolo era decisamente molto diverso, raccontando appunto della decisione della BCE di Mario Draghi. La BCE non può, così era il titolo del commento in Germania. Sempre più disperata la banca centrale contro la crisi in Europa, ma la miseria ha altre ragioni. Frankfurt Allgemein così dice: la banca centrale europea avrebbe potuto fare di più per l'economia, ora acquista più titoli, distribuisce più soldi, ha già fatto molto, ora acquista anche titoli di dubbia qualità e se la prende soprattutto con la Grecia e Cipro, ma poi aggiunge: il problema però in Europa è molto diverso e che mancano investimenti. All'Europa, dice il Frankfurt Allgemein, dovrebbe riflettere sul perché invece le imprese e le persone non hanno investito pur essendoci già liquidità. Sono le prospettive a lungo termine troppo deboli in un un continente in cui nascono meno figli, si chiede giornale tedesco, la mancanza di idee innovative in cui si poteva investire quei soldi o c'è un altro motivo? Solo quando queste domande si potrà dare una risposta, si potrà in qualche modo uscire dalla crisi in Europa e trovare la via giusta, così il Frankfurt Allgemein. Il quale tra le righe poi se la prende anche con quello che dovrebbe essere il futuro commissario che proprio di questi temi e di flessibilità in tema di conti dovrebbe occuparsi, vale a dire il francese Moscovici, che è stato tra i commissari sentiti questa settimana all'Europarlamento e in qualche modo rimandato alla prossima settimana. E allora vediamo anche che ne pensano i francesi di tutto questo. Francesi, ne abbiamo parlato ampiamente questa settimana, che sono stati protagonisti dello scontro con Bruxelles proprio in tema di conti. Ebbene, i francesi hanno presentato le loro prospettive economiche, già dicendo che sforeranno il 3% e che però sono pronti a fare tagli invece nel loro bilancio. Libération ci ricorda ad esempio che la spesa pubblica francese resterà relativamente stabile, ma la riduzione del deficit pubblico richiederà più tempo del previsto e il governo sta mettendo un freno alla spesa. Sentite un po' cosa scrive Libération: quasi la metà dei risparmi sarà sulla sanità, a cominciare dal controllo dei prezzi, della prescrizione dei farmaci o il taglio alle prestazioni familiari. Forse temi che anche in Italia non sono così lontani, tanto per dire che l'Europa poi con diversi punti di vista molti problemi li ha davvero in comune. E tra l'altro Libération sottolinea ad esempio questa settimana che il governo francese sta pensando a tenere aperti 7 giorni su 7 musei come il Louvre o Versailles, temi che anche in Italia non ci sono così lontani. Eurodiputati, dicevamo, sotto esame, ogni paese ha problemi un po' coi suoi, dopo le nostre polemiche per Federica Mogherini anche gli altri paesi non c'entrano. Moscovici per quanto riguarda la Francia, per quanto riguarda la Spagna c'è in piedi un vero e proprio problema di conflitto di interesse. L'ex ministro Cagnete è stato sentito e in parte bocciato, perché a far discutere, non solo in Spagna, leggiamo da El País, sono gli interessi in aziende petrolifere di quello che dovrebbe essere il prossimo commissario al clima e poi e all'energia, ovviamente, e poi anche parole che ha detto in campagna elettorale prendendosele con le donne. Aveva detto in campagna elettorale: è difficile, complicato discutere con una donna perché l'abuso di superiorità sembra che tu sia un maschio che sta attaccando una donna in difesa. Mi dispiace, ha detto di fronte agli eurodeputati, ma tra questo e i suoi conflitti di interesse, insomma, rinviato alla prossima settimana. Prossima settimana, e per quanto riguarda la Gran Bretagna, qualche problema l'ha avuto un altro commissario, Lord Hill. Allora, ancora l'Independent. Lord Hill sceglie un approccio alla Hugh Grant nell'audizione all'Europarlamento. Il quotidiano britannico riferisce anche lui dell'audizione al Parlamento europeo del suo futuro commissario sembrava, scrive l'Independent, essere ben più di un'amichevole chiacchierata da caminetto. Hill ha preso l'approccio alla Hugh Grant, un mix di simpatia e comprensione, scherza l'Independent, ma è stato un interrogatorio duro, un approccio che non ha convinto gli europarlamentari, che lo hanno chiamato appunto indietro per una seconda udienza la prossima settimana. Insomma, come dire, l'Europa è qui, i temi in cui si discutono sono un po' per tutti gli stessi, tanti punti di vista, torneremo come sempre a raccontarveli. Ancora una buona giornata, intanto da Anna Migliorati. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.